seduto su gli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli e aguzzini tra le carte di Guccini. Mi si fa le gambe molli mentre arriva Claudio Lolli che mi guarda e dice: beh, sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Tra poveri è scontato che di moda va bennato, i ricchi e i benestanti vanno pazzi per Morandi. Ma se noto il resto a galla, il merito è di Dalla, che mi dice che pena sempre figlio di Carena. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro un frigo. In un frigo tutto muto come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde col Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. A 2 miglia da Bruxelles c'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Rennis con i Mitra e mi dicono: li hai visti, son venuti per Battisti. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Bruno Lauzi un po' in disparte gioca a scacchi con Endrigo, scrivo una canzone che ho trovato dentro il frigo. Molto e malandato come un giorno disperato quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino.